come passare al bar prima di tornare a casa, parlare alla radio e ascoltare la trasmissione. La Zanzara di Giuseppe Cruciani. Come potete giudicare? Come potete condannare? Vi credete che noi siamo per i capelli che portiamo. Eccoci qui, caro Parenzo. Eccoci, direttorissimo. Buon inizio settimana. Buonasera, buonasera. 800 24 00 24. Calmo con questo bonsoiré. Riserviamoci, teniamoci tutto per domani, quando saremo a Bruxelles, presso l'Unione. Fermento, Parlamento Europeo in fermento per il nostro arrivo, amico mio. Eh sì. Intanto urge una tua presa di posizione, questa volta definitiva, perché sì. Qui non c'è tanto da essere terzisti. Bagnasco? No, Bagnasco, sì, anche Bagnasco. La Chiesa, vabbè, dopo la Chiesa, ne parliamo dopo la Chiesa, quello che ha detto Bagnasco oggi sulla moralità, nella politica, eccetera, eccetera. Sei con Saviano o con Marina Berlusconi? Ti faccio ascoltare, anche se lo hai già sentito, quello che ha detto Saviano, che ha dedicato questa laurea ad honorem che ha preso l'Università di Genova ai PM di Milano, cosa che a me risulta francamente un po' incomprensibile. Comunque bisogna scegliere o con l'uno o con l'altro, non bisogna tentennare, dire no, quello ha ragione, quello ha torto, e però sì, ma eccetera. Saviano, via. Chiudo soltanto con la mia personalissima dedica di questa laurea e di questa giornata, che ovviamente non dimenticherò per tutta la vita. E dedico questa laurea a tre magistrati: alla Boccassini, a San Germano e a Forno, che in questi giorni stanno vivendo, credo, giornate complicate solo per aver fatto il loro mestiere di giustizia. Grazie mille. No, questa volta lo dico nettamente. Da che parte stai? Aspetta, prima diciamo che cosa ha detto Marina Berlusconi, sennò la gente non capisce. Mi fa letteralmente orrore alla Mughini, orrore. Anzi no, Mughini diceva un'altra cosa in realtà. Aborro. Mi fa letteralmente orrore che una persona come Roberto Saviano, che ha sempre dichiarato di voler dedicare ogni sua energia alla battaglia per il rispetto della libertà, della dignità delle persone, della legalità, sia arrivata a calpestare, di conseguenza a rinnegare tutto quello per cui ha sempre proclamato di battersi. Comunque mi fa orrore. Da che parte stai? No, a me non fa orrore, ma sbaglia. Dico che non mi fa orrore assolutamente, però è una dedica sbagliata, una dedica inutile, una dedica di cui non c'era bisogno. C'è un'inchiesta in corso, c'è una persona sottoposta a indagine che è il cavaliere presidente del Consiglio Silvio Berlusconi, che avrebbe fatto delle cose ad hardcore di un certo tipo, e c'è un'inchiesta in corso, lui è una persona sottoposta a indagine. Che c'entrano dedicare la laurea ai tre magistrati? Non c'entra niente, dedichiamola a Falcone, Borsellino, a chi ha concluso le indagini, se proprio si deve dedicare un titolo, un riconoscimento come quello, a parte che non ce n'è però bisogno. Si può capire, dire. Si può capire che io capisco la reazione di Marina, ecco. Perché io capisco la reazione di Marina, perché ho sempre detto che preferisco il Berlusconi imprenditore dal Berlusconi politico, e quindi riconosco a Marina Berlusconi un impegno importante alla guida di un grosso gruppo come Mondadori, che ha al suo netto successi editoriali enormi, tra cui appunto i libri di Saviano, per cui voglio dire, evviva i Berlusconi editore. Vabbè, questo adesso lascia perdere il distinguo tra Berlusconi editore e Berlusconni politico. Complesso. Capisci la reazione? Ha ragione Marina. Capisco la ragione di Marina. Io è inutile che ve lo dico, insomma. Devi fare un lancio di agenzia, Parenzo 2 punti. Ha ragione Marina Berlusconi. Capisco la reazione di Marina. Okay. Vediamo se le agenzie lo riprendono subito, adesso verifico. Vediamo, verifica subito l'avanzo. Intanto Alfano, Saviano è all'opposizione. Come potete giudicare? Saviano, basta leggere il seriale di tutte le sue dichiarazioni, si è organicamente collocato in uno schieramento di opposizione. Cioè lui dice esattamente le stesse cose che dicono gli avversari di Berlusconi. Vabbè, questa è la politica. D'altra parte anche quella di Saviano secondo me è politica. Questa è una mia opinione, personalissima opinione. Non è che adesso il ministro della giustizia si mette a commentare quello che dice Saviano. Questo, cioè, infatti, questo infatti è un altro, è un altro aspetto. Me, se avrà altro da fare, no? Si potrebbe evitare, si potrebbe evitare di commentare Saviano, non c'è dubbio. E c'è un'altra questione dirimente: quelli che vanno presto a letto e quelli che vanno tardi. Una questione aperta dal presidente di Confindustria Marcegaglia, come sai, la quale ha detto c'è un'Italia che va a letto presto. Da chi è incarnata, da chi è rappresentata l'Italia che va a letto tardi, caro Parenzo? In questo caso mi sembra evidente, anche se non è citato, anche se non è citato il personaggio. E allora sentiamo la Marcegaglia. Dai giornali italiani e esteri esce un'immagine dell'Italia non positiva e questo ha un impatto. Ecco, io quello che cerco di fare ogni volta che incontro una persona che sta all'estero è però di sottolineare che esiste anche un'altra Italia, no? Esiste un'Italia di tanta gente che va a letto presto, si sveglia presto, lavora seriamente, fa impresa seriamente, lavoratori che lavorano, donne che si impegnano, fanno le madri, fanno le lavoratrici, fanno... quindi c'è un'altra Italia che non appare, che però è un'Italia importante. Così perché credi... Allora, orrore, lo diceva Gigi Sabani quando imitava Enzo Tortora, ci segnala Fabrizio da Padova. Bene, 800 24 00 24. Mi era sfuggita venerdì scorso una cosa che ha scritto Gad Lerner a Emilio Fede sul suo blog. Te la leggo. Oggi vorrei allietarvi, scriveva Lerner, con una letterina che ricevetti il 1° dicembre scorso da Emilio Fede in risposta a un mio articolo uscito su Vanity Fair dal titolo Gli arzilli vecchietti della classe dirigente. Così, tanto per sapere come ragione e come scrive un signore, riporto testualmente. Senti la lettera scritta da Fede e diffusa urbi et orbi da Gad Lerner. A Gad Lerner non sarai tu a decidere come sarò ricordato. Tu, quando arriverai a 80 anni, ma ti auguro di arrivarci, soltanto come un imbecille. Vergognati, deciderò come ricambiare, ti giuro, così. La mia vita è stata prestigiosa dal punto di vista professionale e umano. Se ho avuto delle storie d'amore, me le sono meritate. Tu sei troppo brutto per averne avute. Soltanto se ridi scappano pure i mostri, coglione. Così. Firmato Emilio Fede a Gad Lerner. Ma gliel'ha mandata riservatamente o era stata pubblicata, beh, da qualche parte? No, riservatamente, lui l'ha resa pubblica sul suo blog. Non so se ti rendi conto. Beh, ha fatto bene Gad. Tu come al solito ha fatto bene Gad. Ma scusami, ma non si, detto, non si rendono note queste cose, sono lettere private, su, sono lettere private. Ma fare una cosa così, ma è uno scambio epistolare piuttosto duro e anche ingeneroso, dai, dai, cioè, Emilio Fede dubbiamente sarà ricordato anche per altro, perché sono stato un grande inviato della RAI. No, forse non hai capito che la lettera è di Emilio Fede a Gad Lerner. Appunto, dico, quindi siccome si è verrà ricordato, perché questa acrimonia nei confronti di Gad solo per un articolo su Vanity Fair? Cioè, una questione molto giornalistica. No, certo, certo, certo. Però vorrei farti sentire cosa dice Lerner a proposito della scorta tolta a Fede. Sentite. Ho letto sul giornale, non so se sia vera, che hanno tolto la scorta a Emilio Fede invece nei giorni scorsi. E credo lo abbiano fatto vigilanza, per proteggerlo, perché sono talmente incazzati i poliziotti in questi giorni con quello che è successo che... Questa, questa è la storia della parentesi. Non lo so, ma non credo. No, ma... E aggiungo, spero anche di no. Bene, siamo agli scontri epocali, eh. Siamo agli scontri epocali. Poi te ne presenterò altri di scontri epocali di queste ore. Intanto, collegamento con Milano, dove mi trovo io, tra l'altro, con la signora Sara Giudice. Buonasera. Buonasera, buonasera a tutti. Come sta? Consigliera di zona a Milano, quelle che una volta venivano chiamate, almeno a Roma, circoscrizioni, adesso si chiamano zone. Arrondissement. Ma tu adesso ti stai subito immergendo in un clima europeo, con questo francese approssimativo che cerchi di spacciare per un francese forbito. Signora Giudice, lei con chi sta? Con la signora Berlusconi, Marina, Dominus di Mondadori o con Roberto Saviano? Non mi faccia la terzista, eccetera, eccetera. Mi dica una cosa chiara. Guardi, io sono dalla parte delle nuove generazioni che non vogliono modelli di riferimento sbagliati come quelli che fino adesso si stanno proponendo a questo paese. Marina Berlusconi ha dato una risposta da figlia e posso comprendere la sua risposta. Mm. però lei non mi è stata chiara con questa, questa sua risposta. Cioè, quando Saviano dedica la sua laurea d'onorem ai giudici di Milano, fa una cosa corretta oppure una cosa fuori posto che non c'entra niente, non è il suo ruolo, ci sono delle indagini in corso, non è il caso di elogiare o comunque di dare solidarietà ai magistrati? Sì, io l'ho apprezzato di più quando ha fatto ben altre dichiarazioni. Questa se la poteva risparmiare, secondo me. Questa se la poteva risparmiare. Ecco, mi è piaciuta la signora giudice con questa risposta, sai, Parenzo? Allora, no, perché abbiamo chiamato Sara Giudice? Perché Sara Giudice è una persona serissima, molto in gamba. Vabbè, adesso, subito queste cose. Lui, come perché al è vero. Signora giudice, il signor Parenzo qui, David Parenzo, è abituato a fare, quando siamo qui alla radio, a questo ruolo, che io sono un po' più cattivo. Lui invece, naturalmente, deve un po' lisciare il pelo agli ospiti. Vabbè, ma lisciare il pelo. Sì, via Laminetti, sì, giudice, via Laminetti, sì. Giudice. Ma tu non conosci né Laminetti né Sara Giudice, no. Già hai deciso, conosco, via Laminetti. Conosco Sara Giudice, confermo. Conosco dai giornali. Ma ha 25 sì, anni, quando l'hai conosciuta? In un'altra vita? Ma io ho lavorato un po' in questa regione dalla quale trasmettiamo. Hai 10 anni di meno tu, di più, scusa. Che c'entra? Ha lavorato in questa regione da tanti anni, giudice fa politica da più di 7 anni, io da 10 anni lavoro qui e so che non è la prima volta che si è mostrata come giovane di talento del PDL. Ha delle ragioni per essere incazzata con il suo partito, perché si vede in consiglio regionale un igienista dentale che, voglio dire, dal cursus honorum dubbio da un punto di vista politico, non c'è dubbio, e su quindi questo sta ingaggiando una battaglia meritevole dentro quel partito che di libertario ha soltanto la lenzuola. Vabbè, come al solito tu vai subito per la tangente, parti subito per la tangente. Signor giudice, innanzitutto mi dice quante firme ha raccolto fino adesso? Guardi, ad oggi siamo a 4.000 firme, mi posso permettere di ripetere qui da voi il sito al quale aderire? No, lo dico io, lei mi corregga, è www.firmiamo.it/dimissioni Nicole Minetti, giusto? Perfetto, questa è... 4.000, poi controlliamo, noi non è che lei ci può... Prego. No, controlliamo. Questa è una battaglia trasversale, io so che la parte migliore del paese è con me e vado avanti per la mia strada nonostante tutte le difficoltà. La parte migliore del paese, sa che però a me queste battaglie, per cui c'è una parte cattiva e una parte migliore, i buoni e i cattivi, ci sono quelli più bravi e quelli scarsi, i puri e invece i virtuosi, e dall'altra parte non so che cosa, forse la sentina di tutti i mali, non è che mi piacciono molto, però vorrei nella raccolta di firme, devo dire che poi lei prima dei dubbi sul fatto che Laminetti sia stata candidata, e non è la prima volta che le esprime, anche quando si candidò, questo bisogna dire. Esatto, ma guarda, io quello che contesto non è la persona, che non conosco e non mi interessa conoscere, ma è il suo modello, cioè ciò che lei rappresenta, cioè un modello generazionale di 25enne che non si è fatta le ossa, non è andata nelle università, non è andata a farsi 800 euro al mese in un'azienda, non ha fatto niente di tutto questo e si trova adesso a guadagnare 15.000 euro al mese per, come dice lei, non si sa quale motivo. Io credo che questo sia un messaggio devastante che arriva alle generazioni di perché di no, oggi. Mi scusi, questo secondo me non, adesso c'è il traffico, poi torniamo. Il punto però non è questo, non è il fatto che lei non abbia un curriculum politico sostanzioso, è il modo in cui è entrata a fare politica. Un'altra cosa, non è che può fare politica solamente chi è laureato, chi ha tre master, chi ha fatto i corsi di qui e i corsi di là, chi ha fatto la gavetta per 10 anni, altrimenti mettiamo una legge, dei paletti già decisi e gli altri restano esclusi. È una forma di quasi di censo se la mettiamo in questo modo. Andiamo a sentire il traffico, torniamo subito. Come potete giudicare? Bene, bene, 18:48, questa è la Zanzara, caro Parenzo, inizio di settimana, 800 24 00 24, abbiamo in collegamento prima ospite della serata, Sara Giudice, che è consigliere di zona a Milano e che sta raccogliendo delle firme per le dimissioni di Nicole Minetti. È evidente che con le firme non è che si ottiene le dimissioni, si ottengono dimissioni automatiche, è una forma di pressione, non so su chi, forse solo su se stessa, perché cioè sulla stessa Minetti, perché solo lei può presentare delle dimissioni. Senta, ma è vero che lei può passare all'UDC, è in trattativa per passare all'UDC? Passare, poi no, insomma, no, consigliere, no, guarda, di zona. Non sto cercando nessun posto né nessuno che mi offre niente. Io sto facendo questa cosa perché ci credo, perché la sento veramente dentro. E non sono da sola e le 4.000 firme lo dimostrano. Quello che io, il messaggio che voglio dire è, c'è una parte di questo paese e di questo partito che sta chiedendo un cambiamento. Mm. E questo cambiamento poi si può decidere di ascoltarlo o di ignorarlo. Questo non aspetta a me. Chiaramente, come dice lei, è un gesto simbolico per dire non tutti sono qui a subire passivamente le scelte degli altri, qualsiasi essi siano. Senti, ma lei alla minete avete la stessa età, no? Avete sì, esatto. 25 anni tutte e due. Ma secondo lei, mi dica la verità però, perché Nicole Minetti è stata candidata nel listino bloccato in Lombardia? Cioè c'è il motivo vero per cui è stata candidata lì, qual è? Io so per cosa non è stata candidata. Cioè? Cioè non è stata candidata perché è una giovane che rappresenta un grande valore, una grande eccellenza di questo paese. Non lo è, mi dispiace, ma non è una questione di giustizialismo, ma è una questione di etica politica. A me basta quello che ho sentito, non ho bisogno di altro per considerare che... Quello che ha sentito cosa? Quello che ha sentito cosa? Quello che abbiamo sentito tutti, quello che abbiamo... il tipo di vita che conduceva, il tipo di espressioni che usava e il tipo di modo in cui si presenta. Che è tutto, però come impostazione, cioè guardare le intercettazioni, far leva su questo tipo di cose, è l'opposto di quello che è stato il PDL fino adesso. Lei se ne rende conto di questo? No, è esattamente questo il punto. Chi mi accusa di essere giustizialista è semplicemente un modo, francamente anche un po' maldestro, di non pensare a quello che è il reale problema. Cioè io sto chiedendo che siano inseriti nella politica i giovani che veramente ci credono, i giovani che veramente fanno dei percorsi puliti. Puliti significa anche che le famiglie in queste ultime settimane sono state umiliate, sembra che le famiglie italiane sono tutte disposte a far prostituire perché le figlie. Perché secondo lei è una prostituta la signora Minetti? No, io non dico che è una prostituta, non mi interessa se lo è. Beh, l'ha praticamente detto, perché con questo ragionamento che ha fatto sulle madri che guardano queste cose, che leggono, eccetera, sembra che siano tutte disposte a far prostituire i propri figli. Voglio dire, che mestiere fa secondo lei la signora Minetti? Fa l'igienista dentale o qualcos'altro? La signora Minetti ha dimostrato di far parte di un certo giro, quale ad esempio quello di Lele Mora, che certamente non è un modello delle ricercatrici universitarie di Harvard, mi scusi, cioè un tipo secondo me di bassa Italia che non dovrebbe essere rappresentata nelle nostre istituzioni. Cioè io vorrei che i dirigenti del mio partito si riferissero proprio come modelli a altri esempi. Poi ha ragione lei, ci sono persone in gambissima che non hanno una laurea, non è questo il problema, ma il problema è che magari hanno dimostrato nel corso della loro vita di essere eccellenti in diversi... Scusi un attimo, allora lo stesso ragionamento potrebbe essere applicato per il ministro delle pari opportunità, la signora Carfagna, o no? Sì, assolutamente. Cioè dunque, anche perché non fa una raccolta di firme per le dimissioni della Carfagna? Guardi, secondo me ci sono momenti in cui si supera un certo limite, no? Come ha detto anche Beppe Cervellini in un'intervista di recente. Secondo me ci sono momenti in cui il limite viene superato e bisogna fare un passo indietro. Io quello che sto chiedendo, quello che chiedo anche al Presidente del Consiglio e il Presidente del mio partito, è quello di scegliere. Visto, lui ha sempre parlato di generazione, ha sempre parlato di scelte di campo, io chiedo anche a lui una scelta di campo. Che tipo di modello generazionale per il futuro vuole questo Paese? Senta, ma secondo lei che rapporto c'è dal Presidente del Consiglio alla signora Minetti? Non ho capito, scusi. Dato che il punto alla fine è questo, che rapporto c'è tra il Presidente del Consiglio e la signora Minetti? Non ci nascondiamo dietro un dito, cioè qual è il rapporto che c'è secondo lei tra i due? Ma io, anche qualora fosse un rapporto di amicizia o di conoscenza personale, stima personale, deve rimanere nel personale e non nelle istituzioni. Questo perché? Perché la signora Minetti non ha il curriculum adatto a fare il politico? No, allora la signora Minetti poteva decidere anche di fare una cosa sacrosanta che si chiama gavetta. se la signorina Minetti fosse stata inserita, cioè io non ho capito se il punto, se il punto è la partecipazione a queste feste di cui si è saputo adesso, perché lei la battaglia l'ha fatta anche prima, cioè siccome lei ha fatto una battaglia anche quando fu candidata, evidentemente c'era qualcosa che non tornava anche prima. Qual è il, lei che cosa è che mette in dubbio? Il fatto che sia stata candidata semplicemente perché nel giro delle donne che vanno alle feste del premier, è questo? Non solo per questo, ad esempio perché è una persona che non si è mai vista militare sul territorio, no? Una persona che non abbiamo mai visto fare gazebo, fare banchetti, combattere per il partito. Io nei miei umilissimi 7 anni di militanza politica ho partecipato a 5-6 elezioni tra provinciali, regionali, comunali, politiche. Io non, la signorina Minetti non l'ho mai vista. Vabbè, uno potrebbe dire, insomma, lei è invidiosa perché lei è passata avanti la signora Minetti, questo... Ma questo... no, guardi, se fosse stato messo un giovane, mi scusi, con le palle, io sarei stato soltanto contenta, mi creda. Signor Parenzo, vuole domandare qualcosa? No, domandare, il dato è questo, che dentro il PDL ci sono persone, cioè la signorina che sta parlando ha 25 anni, da 7 anni milita in un partito che si chiama Popolo delle Libertà, prima Forza Italia, non è di sinistra, non è pagata dai PM, non è pagata dai De Magistris, è una che si sta mettendo in gioco, che sta costruendosi anche un suo profilo politico attorno a questa battaglia. Sì, però c'è qualcosa che non, c'è qualcosa che non diciamo, che ti puzza? Cioè, la no, c'è qualcosa che non diciamo fino in... c'è qualcosa che non, secondo me, che non viene detto fino in fondo dalla signora giudice, e che forse non può essere detto perché non è facile dirlo. Cioè, la contestazione in realtà è che sia la signora Minetti sia una delle amanti di Berlusconi. Me lo dica se lei pensa questo, perché in fondo secondo me la critica principale o il retropensiero è questo. Lei pensa questo, signora giudice? Mi credo, questa però è una considerazione un pochino troppo superficiale. Cioè, il punto non è se è l'amante di Berlusconi, perché potrebbe essere anche l'amante di Berlusconi per la signora Marcegaglia, per assurdo, però la signora Marcegaglia è una donna con i controcoglioni. Adesso stiamo... cioè, chi se ne frega se è l'amante di Berlusconi? No, precisiamo che è un che è un discorso. È un iperbole, diciamo. Sì, sì, ma voglio dire, cioè, no, perché lei non sa. Una donna che ha dimostrato nella sua vita di aver fatto un percorso professionale, umano, di grande livello. Vabbè, l'igienista dentale, scusi, l'igienista dentale è una professione come le altre. Io non l'ho mai, io vorrei sapere in quale studio di igiene dentale ha mai lavorato la signora. Questo bisognerebbe capirlo. Abbiamo il giornale radio, torniamo subito dopo, 800 24 00 24. Siamo qui alle 19:18, riprende la zanzara, caro Parenzo, 800 24 00 24. Che stai facendo? Sei a Milano, fra poco no, conduci. No, sono qui a Milano ad Assago con Beccalossi, Aleotti, tutte le persone che stanno qui in attesa dell'inizio della trasmissione. Va bene, andiamo dedicata a sentire. Dedicata alla signora Minetti, amico mio. Come, no, scusa? Trasmissione dedicata alla signora Minetti. Anche stasera? Sì, dedicata a Minetti... Rivelazioni clamorose. Beccalossi, che qui al mio fianco ha autografato la schiena della signora Minetti. Ah no, il fondo schiena della signora Minetti, c'ho la foto in mano. Vabbè, ma non è una notizia clamorosa, però ha la foto. Ma veramente? Veramente è qui al fianco a me Beccalossi, certo. No, ma che ha fatto? Beccalossi ha partecipato una volta a uno dei programmi che ha fatto. Non lo so, se vuoi te lo passo, io chiedi direttamente. Passamelo un attimo. Posso passartelo? Evaristo Beccalossi. In diretta, in esclusiva alla Zanzara, Evaristo Beccalossi. Sì, pronto. Evaristo, buonasera. Come stai? Ciao, ciao. Come bene, stai? Bene. Ma cos'è questa storia dell'autografo che hai fatto sul fondoschiena della Minetti? Scusa. Ma no, ma l'ho scoperto anch'io perché non mi ricordavo, sono passati 3-4 anni. Cosa hai scoperto? Raccontami un po'. Ma no, era la trasmissione di Nicola Savino, DJ Angelo Scoria su Rai 2 e c'era il festeggiamento dell'Inter e c'era lo scudetto che è stato pitturato sul fondoschiena. Però non mi ricordavo, sai, l'età avanza e... Beh, quello per tutti. Ma spiegami una cosa. Però c'è... complimenti a David perché fa l'assist man, cioè lui tira la volata e poi piazza gli ospiti. No, appunto, però adesso che siamo in ballo mi devi spiegare bene, cioè qualcuno disegnava lo scudetto dell'Inter sul fondoschiena della Minetti? Sì, esatto, siccome era in concomitanza con la vittoria dell'Inter e... Sì. E allora in studio, in diretta, si era fatto uno scherzo, insomma, e ci si è divertiti un po' a pitturare questo 17° scudetto, mi sembra. Ecco, ma chi è che pitturava questo scudetto, su esattamente in che non parte? Non si dice, ufficialmente doveva essere stato io a pitturarlo, però poi dopo l'ho già trovato stampato. L'ha usato qualcun altro col pennello lì. Ah, tu dici. Senti, ma era proprio lì sul fondo schiena, quello che abbiamo capito tutti, insomma, questo scudetto. Ma sì, dai, era carina la situazione. Ma lei che faceva lì, la signora Minetti, in quel caso? Faceva la... No, ero ospite a Scoria io, però... No, lei, la signora Minetti, che faceva? Ah, non lo so, perché non c'eravamo in diretta, io dovevo fare solo il pittore. Dovevi fare il pittore, in realtà l'hai trovato già. L'hai trovato già. Durante la diretta non si può parlare, io dovevo solo col pennello pitturare. Ma invece in realtà era già tutto pronto. No, non lo so, questo era già tutto pronto, sì. Vi lascio che ti passo da via. Grazie. Ciao, grazie, Evaristo Beccalossi. Andiamo a sentire i titoli del TG3. Il presidente dei Vescovi Bagnasco: c'è disagio morale, il paese è sgomento, sobrietà per i politici, fare chiarezza nelle sedi appropriate. Ieri le critiche di Confindustria, oggi il severo monito della CEI davanti a Berlusconi, anche lo scoglio del federalismo. Kamikaze si fa esplodere all'arrivo dei voli internazionali all'aeroporto di Mosca, 35 morti e 150 feriti. Dai legali di Berlusconi le indagini difensive, riascoltato oggi la Macri, i PM milanesi chiederanno il rito immediato per il Premier. Il PDL propone una legge che prevede per l'imputato assolto di richiedere un rimborso per intercettazioni indebite. Facite a Muina, fate confusione, un ordine in voga ai tempi dei Borboni, sembra tornare di moda negli odierni dibattiti politici in TV. Il mio impegno è valorizzare le cose belle. Al TG3 Giovanotti parla del suo nuovo album e ricorda la madre scomparsa poche settimane fa. Beh, questa era anche Nicole Minetti non troppo tempo fa, quella descritta come valletta, mi dicono, di Scorie, non sono esperto di queste cose, descritta da Evaristo Beccalossi durante una festa per lo scudetto dell'Inter. Qualcuno aveva disegnato nel suo fondoschiena uno scudetto, un tricolore con il numero 17 forse, ma pare che le foto girino anche su internet. Il consigliere regionale Nicole Minetti. Questo alleluia è dedicato al cardinale Bagnasco, caro Parenzo, il quale oggi se n'è uscito con alcune frasi che faranno discutere, naturalmente. Sentiamo. È necessario fermarsi tutti in tempo, fare chiarezza in modo sollecito e pacato e nelle sedi appropriate. Fare chiarezza nelle sedi appropriate. L'Italia è sgomenta, serve sobrietà. Chiunque accetta di assumere un mandato politico deve essere consapevole della misura e della sobrietà della disciplina e dell'onore che esso comporta, come anche la nostra Costituzione ricorda. E quasi per contrasto facciamo sentire quello che ha detto ieri sera durante la presentazione di uno spettacolo Lele Mora. Certo, sono due personaggi agli antipodi, il cardinale Bagnasco e Lele Mora, su questo non c'è il minimo dubbio. Abbastanza agli antipodi. E Mora che dice: noi facciamo sempre festa. È un perfetto contraltare, direi, al cardinale, Bagnasco. Lele Mora. La Weltanschauung di Mora. Via. Noi facciamo sempre festa, perché la nostra vita è una festa. Tutte le sere si vaccina da una parte, dall'altra. Cosa, andiamo in giro con quattro babalù? È meglio avere intorno a sé delle belle donne. Beh, mettere Bagnasco insieme all'Ele Mora è spettacolare. Epocale. Solo alla Zanzara, questa via. È solo alla Zanzara, evidente. Sempre l'Ele Mora che dice: Berlusconi mi diceva, porta chi te pare. A volte eravamo anche io solo e Emilio Fede a cena col presidente, e non siamo né belle donne e non è che abbiamo portato le ragazze. A vari inviti che il presidente mi ha fatto ha sempre detto porta chi vuoi. E poi le serate, che chissà perché nei discorsi ufficiali sono sempre delle serate con dei filmati, con delle scene, sempre piuttosto sobrie. Si mangia, si canta e poi si va la nanna. Si arrivava, si beveva l'aperitivo, menù tricolore, si incominciava a cantare, il premier cantava sempre in francese, i suoi classici, un po' di barzellette, un po' di commenti di cose che aveva fatto durante la settimana. Finito, si beveva il caffè sotto nel salone, dove c'è un salone tipo un teatro, che si vedeva un filmato o un film o varie cose, ma nulla di più. E poi Emilio Fede, quasi di concerto, sempre con questa musica di sottofondo, molto, no, molto da chiesa, questa sinfonia ecclesiale quasi. Di sotto guardavamo i video dei suoi viaggi. Una solo questo succedeva, conferenze, con un grande schermo dove lui ci faceva vedere a volte ripetitivamente quelli che erano i suoi viaggi all'estero, le sue strade, no, di famiglie, o anche le partite di calcio, o anche ricordo bene Baria, abbiamo visto in anteprima Baria, ma anche il grande spot che lui ha dedicato, ha curato personalmente lo spot per invitare all'estero gli stranieri a venire nel nostro paese. E concluderei però sempre con Bagnasco. Torniamo a Bagnasco dopo questo quadretto, così per concludere questo, questo blocco. Bagnasco, uno quasi, mi basta solo la voce di Bagnasco per evocare il contrasto, la voce di Bagnasco. Si moltiplicano notizie che riferiscono di comportamenti contrari al pubblico decoro e si esibiscono squarci, veri o presunti, di stili non compatibili con la sobrietà e la correttezza. Mentre qualcuno si chiede a che cosa sia dovuta l'ingente mole di strumenti di indagine. In tale modo, passando da una situazione abnorme all'altra, è l'equilibrio generale che ne risente in maniera progressiva. Va bene, 800 24 00 24, Luciano da Brescia, buonasera. Buonasera a lei, buonasera a tutti. Dica. Niente, io volevo iniziare dicendo che anch'io sono un militante di centrodestra e ho 26 anni. Come e la signora giudice, insomma. Esattamente, mi laureo da qui a un mese, per cui sì, non sono nelle stesse condizioni più o meno. E in ogni caso volevo sostenere la sua posizione della signora giudice in quanto inattaccabile. E anzi vorrei proporle di allargare il tiro di questa iniziativa. Ci sono tante Minetti? Ci sono tante Minetti disseminate in tutta Italia? Purtroppo temo di sì. Ma donne o anche uomini? Ma probabilmente anche degli uomini. Però soprattutto donne. Purtroppo sì, perché la passione. Mi chiarisce, là, scusi? Là? Là? No, che stava dicendo? Perché? No, cercando di allargare il tiro dell'iniziativa, insomma, perché ci sono altre. No, ho capito, mi sembrava che lei stesse dicendo qualcosa. Vabbè, adesso magari dopo la borsa mi dirà un altro caso simile Minetti che l'ha colpita. 800 24 00 24, questa è la Zanzara, torniamo subito. Io rimango sempre colpito, caro Parenzo, quando ascolto una come Sabina Began, detta la Peregina, no? Te la ricordi? Sì. Come no? In questi giorni chiacchiera da morire su Berlusconi dicendo di essere innamorata, eccetera, eccetera. Senti, questa cosa eccezionale. Tanto che le cose che ho sentito mi spingono a invitarla uno dei prossimi giorni, perché bisogna farsi chiarire tutto, è necessario. Fondamentale. Per esempio, lo amo così tanto che lo spingerei sulla carrozzina. Non ci posso credere. Come? È così. Che augurio, senti, ecco. senti. Io tante volte ho detto al presidente, io ti amo tanto, ma il mio amore può essere interpretato in tante maniere diverse. E lui mi dice a me: Sabina, ma tu sei una ragazza giovane, io ho 72 anni, questo mi disse un po' di anni fa. E io ho detto: ma io io ti amo ugualmente, non ha importanza della tua età. E lui disse, ma io fra 10 anni sarò in una sedia a rotelle. Io ho detto, ma io ti porto nella sedia a rotelle. Benvenuta nel mio spazio sotto il salice, salice. Gli regalo rose, scrivo lettere e disegno le farfalline. Io adoro questa persona. Io da quando l'ho incontrato, sono tanti anni che io gli regalo ogni settimana una rosa rossa e una rosa bianca, con delle lettere che le scrivo il mio stato d'animo in questo momento, i miei pensieri d'amore per lui, e queste lettere contengono con le farfalline dentro che io faccio tutto per lui, ci metto 3-4 ore per decorarla, per scriverla. Berlusconi può essere come Gandhi. Cos'è ghiacciante? Il presidente, io lo vedo così, potrebbe essere davvero un Gandhi per me. Cioè, ma come può lui governare se intorno a lui c'è solo dell'odio? Allora tutti quanti, secondo me, dovete circondarlo d'amore e aiutarlo che lui veramente potesse dare qualcosa del suo. Beh, certo, l'immagine di Gandhi affiancata a quella di Berlusconi fa un certo effetto, devo dire la verità. Un po' eccessiva per il Mahatma, diciamo, no? Sì. Mahatma Gandhi, dai, non la so. Marcia del sale, ma che dice? Vestito di un cencio, ma che dice? C'è delle regole, poteva paragonarlo a qualcun altro, ma Gandhi. Cioè Gandhi con quel fisico esile, magro, macilento, i digiuni, ma che roba è? Ma qui ormai puoi dire tutto, cioè qui si sta trasformando è in farsa. Tutto finito, tragedia. È tutto. It's all finished, come dicono gli inglesi. It's all. Allora, finished. Eravamo in collegamento con il signor Luciano da Brescia, anzi, con Gandhi. Luciano da Brescia. No, adesso... Berlusconi Gandhi, dai, mi va il sangue al cervello. 26enne militante del PDL, il quale dice ci sono tante minetti sparse per l'Italia. Ci faccia un esempio però, Luciano, altrimenti non certo. Riusciamo a capire, non riusciamo ad afferrare. Vabbè, innanzitutto mi lasci dire che rispetto a quella che ha appena parlato, va bene che lei lo ama al di là di ogni suo potere, per la sua moralità, diciamo, e che agli uomini piacciono gli uomini più maturi, ma questa qua è da indagare a livello patologico come cosa. Però vabbè, adesso ognuno ha le sue passioni, ognuno ha i suoi amori, sì, assolutamente. Come, scusi? No, è un giudizio che mi permetto di dare. Sì, sì, va bene, ma insomma, le altre minetti per le quali lei protesta, quali sarebbero? Dove si trovano? Dove si annidano? No, guardi, se vogliamo fare un esempio che probabilmente è noto a tutti, che comunque ha già suscitato in passato qualche dubbio, cioè andiamo a prendere il ministro per le pari opportunità. Vabbè, ma lei non c'è niente da rivelarci, allora, Luciano, se ci vuole fare le cose, la Carfagna, eccetera, lei sta dicendo, oltre alla Minetti ce ne sono tanti altri esempi, dove stanno questi esempi? Mi citi uno nella sua città? Nomi, cognomi, luoghi, persone, quello perché è stata l'amante di quell'altro, è stata eletta, ci dica. No, allora qui non posso esservi d'aiuto. Ma è lei che ha chiamato, mica noi che l'abbiamo chiamata, abbia pazienza, è lei che ha chiamato dicendo ci sono tante minetti sparse per l'Italia, ho capito, ma l'ha detto pazienza. Lui, non è che mi ha telefonato. È una cosa comica. Dice, no, qui non posso esservi d'aiuto, perché hai telefonato, amico mio. No, va bene, tutto, no, figurati. Prego Luciano, si esprima. Dico, fare dei nomi è sempre un pochino difficile, no? Per cui preferirei esulare da sta cosa. E vabbè, ho capito, allora telefonate inutilmente. Benissimo, esuliamo. Luca da Lucca, buonasera. Buonasera dottor Cruciani, e complimenti per la trasmissione a lei e al signor Parenzo. Dica pure Luca. No, io volevo riprendere il discorso di Saviano. Io onestamente sono dalla parte di Saviano, senza proprio spudoratamente così. Perché secondo me ai giudici, lui ha ragione quando in pratica sta dalla parte dei giudici della Boccassini e di quell'altro che stanno dietro a Berlusconi, perché a parer mio, poi ovviamente è un mio modestissimo parere, che sono un po' massacrati sia da giornali Berlusconi, anche solo il fatto di essere preso come esempio negativo dal Presidente del Consiglio, mentre lui stesso dovrebbe andare a depositare dai magistrati e a spiegare le sue ragioni. No, però mi scusi Luca, esprimere solidarietà nei confronti di qualcuno significa che queste persone sono sottoposte a un grave pericolo. Infatti sono sottoposte a ma quale pericolo sono sottoposte? Un linciaggio mediatico assurdo. Ma quale linciaggio mediatico? Ma di che sta parlando Luca? Ci sono una parte quotidiani vicini al centrodestra. Guardi, io non sono di sinistra, quindi no, ma non è nessuno gliel'ha chiesto. Quello che sto vedendo io è che c'è una delegittimazione dei ruoli da parte del capo del governo, e da parte di alcuni esponenti del PDL, forse tutto il PDL, e da parte dei media che sono quasi tutti riferiti al Presidente del Consiglio. Ma non mi sembra che tutti i media sono riferiti al Presidente del Consiglio, Luca, non è così, né mi sembra che i magistrati di Milano, i tre magistrati citati da Saviano, siano in grave pericolo, tanto da meritarsi la solidarietà dello stesso Saviano. Cioè, non mi pare che le cose siano in questo modo. No, ma io ho interpretato... Ognuno esprime la solidarietà per chi vuole. D'accordo, però io ho interpretato le parole di Saviano in questo senso, non ho interpretato perché chissà quale pericolo. E poi, scusi, per quanto riguarda la laurea ad honorem, io penso, almeno secondo me è giusta, perché Saviano... Nessuno l'ha messa in discussione, ma ognuno fa, ogni università dà le laurea ad honorem, si potrebbe parlare a lungo di quanto, di come... Di importanza, per carità. Ma non è quello, ma nessuno ha contestato questo. Io pensavo che... No, ma Luca, lei ha capito male. Gaetano da Napoli, buonasera, arrivederci Luca. Pronto? Dica, Gaetano. Allora, io volevo innanzitutto intervenire su Saviano. Saviano ha fatto i primi anni la buca delle lettere dei magistrati, poi si è schierato sulla sinistra, ha il mio rispetto perché è campano, però potevo anche non dirlo questa solidarietà. Il suo mi sembra un giudizio un po' tranchant, riduttivo su Saviano, la buca delle lettere dei magistrati. Chi ha fatto il consigliere di quartiere a Scampia per 5 anni, 30 anni fa, che ha vissuto nel Casettano, ha avuto un nonno che si chiamava Schiavone, che gli spiegava la storia, e che quando era piccolo andava ai Mazzoni, lo accompagnava il padre cacciatore, sa che significa Casal di Principe, lui non lo sa. Lei si sta riferendo a se stesso, Gaetano? Certo, io ho la mia vita, ho quello che ho fatto, sai, fondatore di Forza Italia, 40 anni nell'MSI. In questo momento c'è un nemico di Berlusconi, è Silvio Berlusconi. Scusi? Un nemico nei suoi confronti, si chiama Silvio Berlusconi. C'è un nemico di chi? Di Saviano? No, è nemico di Silvio Berlusconi, è il suo nemico personale. Ah, Berlusconi ha un suo nemico che si chiama Silvio Berlusconi. È chiaro, è solo lui in questo momento. Per me la Minetti va cacciata subito. La Minetti va cacciata subito. Ah. Per lei sa maestra, non si fa... Non si fa disegnare lo scudetto dell'Inter nel fondo schiena a proprietà del no, quello, no. Ma quello poco male, anzi, quella è un'altra cosa, insomma, magari non doveva essere candidata. Lo so che è una battuta. Ma è un problema di dignità, verso la politica è altra cosa, capito? Cruciani, lei mi diverte perché lei vi fa parlare le persone, li pungola, gli tira le parole, e la gente vuol parlare. Ma Saviano, cosa è diventato secondo lei? Ma per me è una... Come dice Aldo Busi dice che è diventato ormai una sorta di marchio e basta. No, è uno dei simbra sinistra, come l'è stato Santoro, come l'è Fazzi, come Ezio Mauro, come... Cioè, la sinistra ha bisogno di totem, di qualcuno a cui riferirsi, non ce li ha. E ogni tanto se li crea i totem. Parenzo, questo signor Gaetano da Napoli non è male, eh? È pungente. Sulla questione dei totem... No, all'inizio Parenzo non mi piaceva, però Parenzo è non offensiva, è una sua buona spalla, è uno che ridà la voce, ridà il tono, la risposta, è importante. È importante, sì, certo che è importante. Grazie, amico mio, figuriamoci. È bravo perché se no non sa l'interlocutore, lei alle volte non parla con il suo interlocutore, parla con Parenzo. Parenzo, aiutami. Certo. Si riempie di chiacchiere il nostro uomo che telefona, insomma. Io ne sono convinto. Va bene, grazie Gaetano, grazie. Daniele da Milano, buonasera. Buonasera Gaetano, a lei e ai radiospettatori, buonasera. Dica. Allora, un pensiero su Nicol Minetti. Io credo che sia opportuno che si dimetta e mi stupisce che oggi le donne se ne accorgano solo oggi. Le dimissioni secondo me sarebbero dovute arrivare già in ottobre, quando si scoprì che lei che rappresenta le istituzioni è andata a prelevare dalle istituzioni, ergo dalla questura, una ragazza minorenne senza lavoro, denunciata per furto, e l'ha consegnata a una prostituta. Ecco, io questo penso che sia eticamente inaccettabile che una persona delle istituzioni faccia questo, al di là poi delle indagini che la riguardano per favoreggiamento della prostituta. Ecco, io trovo che sia opportuno, va bene che abbiamo condannati per mafia, abbiamo gente di tutti i colori in Parlamento, ma che una ragazza che alla fine è in una regione Lombardia, eletta in un listino blindato, il suo riferimento è Formigoni, uomo di Comunione e Liberazione, dovrebbe essere di una moralità ineccepibile, no? Lui che è famoso per essere illibato e vergine e che ha al suo interno... Eh beh, insomma, una ragazza che fa il bunga bunga alla fine, o che li organizza, ecco, non credo che sia molto etico, per cui sarebbe opportuno che si dimettesse. Il momento in cui si scoprirà, e le auguro che sarà archiviata e che sarà magari processata e comunque assolta, tornerà a farla consigliera. Ecco, io credo che questo sia di buon gusto anche, e sia segno anche di rispetto nei confronti di tante brave donne del PDL che fanno politica nel centrodestra, ma non solo. Ecco. Va bene, grazie. Daniele, 19.45, 800 24, 00 24, quello di Daniele, caro Parenzo, è la posizione classica, no? Non, sì, dico di molte, sì, sì. Non dico di gran parte dell'opposizione, perché non voglio distinguere tra opposizione e maggioranza. C'è chi dice, dopo quello che è uscito, dopo quello che abbiamo letto, dopo le cose che ha fatto, uno non può fare il consigliere regionale. Andiamo a sentire uno dei mostri sacri della politica italiana, per cui qui urge un consiglio anche a Berlusconi da parte di persone che la sanno lunga, che hanno vissuto epoche della politica italiana. Paolo Cirino Pomicino, buonasera. Buonasera a voi e buonasera ai radioascoltatori. Come sta? Geronimo, grandissimo! Grande Geronimo! Come sta? Come sta? Sto abbastanza bene, grazie a Dio. Io sono un raccomandato dal Signore, come è noto, e quindi sto abbastanza bene. Certo, voglio dire, siamo meglio qui. Meglio essere raccomandati dal Signore che non da qualcun altro. In questo periodo meglio essere raccomandati dal Signore, per esempio, che raccomandati da Berlusconi per andare a fare il consigliere regionale nel listino bloccato, o sbaglio? No, ma infatti, ma è questa. Vede, io sento in questi giorni dire tante cose giuste, meno giuste, ma tutte su terreni che c'entrano poco con la questione della quale discutiamo, cioè, il problema giudiziario da un lato, la competenza dei giudici, il giudizio morale, tutte cose che possono avere una loro importanza ma sono marginali rispetto a due questioni. La prima, quella che voi mi avete chiesto, è una indignazione che ormai da anni dovrebbe essere stata presente nel paese, e cioè che persone che sono anche personalmente, io non giudico le singole persone, ma che non hanno nulla a che fare con la politica, sì, e che per un passaggio nel Palazzo Trazioli o nella Villa di Arcore vanno nelle istituzioni repubblicane. Ma perché secondo lei, mi scusi un attimo, Cino Pomicino, perché secondo lei la Minetti è passata nel letto di Berlusconi, mi dica la verità. Io non lo so, io ho detto per Palazzo Grazioli o per Villa... Palazzo Grazioli, che c'è andato a letto, fare? Nel letto, non lo so, ma non mi interessa. Il vero problema è che in realtà si mettono nelle istituzioni repubblicane in posizioni di grande rilievo persone che con la politica non hanno né a che fare né hanno esperienza. Ma questa fa consigliere regionale, Cino Pomicino, questa fa il consigliere regionale, non è che ce ne sono tanti di consigliere regionale, tanti, no, ma insomma. Il consigliere regionale, per chi non lo sapesse, è un legislatore naturalmente della propria regione, una Lombardia che ha 9 milioni di abitanti e che è superiore come popolazione all'Austria. Per carità, certo. E di che parliamo? E allora è chiaro che se uno prende una persona che passa per strada e solo perché ha preso un caffè, diciamo così, ecco, diciamo così, il consiglio regionale, caffè, chiamiamolo caffè. Questo è uno. L'altra cosa che invece è molto delicata. Qui non c'è stata nessuna violenza privata, perché chi ha reso pubblico lo stile di vita di Berlusconi è stato Berlusconi. Perché quando uno va, ad esempio, alla festa in quel di Casoria per la giovane Noemi, o quando costringe amici come Quagliariello, Brunetta e altri a fare le lezioni da Bignani alle ragazze pompon che dovevano essere mandate nelle liste elettorali al Parlamento europeo. Ragazze pompon, erano ragazze che volevano fare politica. Volevano fare politica, ma non è se si comincia a fare politica diventando parlamentare europeo. Si comincia a fare politica nelle elezioni, si comincia a fare politica nei Ma territori. I tempi sono cambiati. Ma quali tempi sono cambiati, ragazzi? Quali tempi? Però mi scusi un attimo, io ho capito benissimo, ma ai suoi tempi, cioè ai suoi tempi, lei per carità è vivo e vegge della lotta insieme a noi, però ai tempi della Democrazia Cristiana c'erano le Minetti? Chi erano le Minetti? C'erano o non c'erano? Qualcuna ci sarà pure stata, qualcuna che... No. Che io ricordi, no. Altra cosa, erano persone che potevano avere un rapporto sentimentale forte con leader politici, per esempio? Ma erano anch'esse politiche. Il riferimento più autorevole è Nilda Iotti, ma Nilda Iotti era una donna politica, come sì, detto, come poi aveva un rapporto sentimentale con il segretario del Partito Comunista, ma non c'entrava letteralmente. Senta, ma invece in quegli anni il Berlusconi di quei tempi là, chi era? C'è uno che faceva una vita privata, pensi che quelli che passavano per essere trasgressivi, chi era? Erano due cari amici, Gianni De Michelis e Renato Altissimo, e sa qual era la loro trasgressione nota, che si può andare a vedere dalle cronache del tempo? Era il fatto che la sera andavano al Tartarughino o in qualche discoteca a ballare. Mitico Tartarughino, Lorenzo, tu non lo sai dov'era il Tartarughino? Tartarughino. No, io ricordo solo il Gilda, il Tartarughino non lo so. Tartarughino. No, Tartarughino era un locale che stava vicino a Piazza Nicosia. Sì, cioè, via Ripetta, Piazza Nicosia era, c'era la sede della DC. Perfetto. Ma lei c'è mai andato? Oh, sì. Io no, perché io amo andare in discoteca, devo dirla la verità. Ma questo che significa? Che casomai nella prima Repubblica o nella preistoria non c'erano liaison dangereuse, relazioni pericolose, ma erano relazioni veramente private, che non incidevano sulla politica. Oggi le relazioni cosiddette pericolose sì, feriscono frotte di persone nelle istituzioni. Per esempio chi? Al di là di questa consigliera regionale, un'altra... No, le posso dire una cosa. Mi dico una cosa, come me la deve dire? In ultimo, il dato vero, ecco il consiglio che ho sentito prima che io avrei dovuto dare a Berlusconi. Ecco, il consiglio vuole dare, ma lei non era con Berlusconi una volta, Ciro Pomicino, fino, no, a, po- fino a poco non tempo. Non è stato iscritto in Forza Italia. No, però era alleato di era alleato con Berlusconi. E non c'è dubbio, infatti. Che significa? Essere alleato con Berlusconi significa? Anche Casile era alleato con Berlusconi, allora. No, ma dico fino a poco tempo fa. L'alleanza non è un'alleanza eterna, se uno poi sbarella e non ha più il senso dello Stato, una persona come Berlusconi sì, che guida il maggiore partito italiano sì, ha il dovere di anteporre gli interessi A del paese, B del partito. A che cosa? Al Bunga Bunga? Al Bunga Bunga. Al Bunga Bunga, diciamo la verità. Al Bunga Bunga. Ma lei ha capito cos'è? Allora l'unica cosa è che Casini oggi gli ha dato veramente un assist importante. A chi? A Berlusconi, dicendo noi siamo pronti a fare un'alleanza con la maggioranza, Berlusconi però faccia il presidente del partito. Ho capito, ma secondo lei, Pomicino, mi scusi un attimo, lei conosce la politica, adesso va bene, è passato con l'UDC, eccetera, però come si fa a dire una cosa di questo tipo? C'è del tatticismo? Cioè dire a Berlusconi, dimettiti e lei, scegli tu... Lei è molto giovane e quindi non sa le regole della politica antica. Ma no, mi permetto. Quella di ogni... mi spiego. Si spiega, si spiega. La dichiarazione di Berlusconi che dice o io o niente, è la dichiarazione che in genere possono fare, come dire, Pol Pot, quello della Corea del Nord. Berlusconi come Pol Pot, addirittura. Berlusconi. No, ma voglio dire, i grandi partiti di massa democratici hanno più dirigenti che possono svolgere un ruolo. Ma quante volte è capitato che, è vero, nell'alleanza, parlo della Prima Repubblica, invece di Andreotti si sceglieva Moro, invece... ma non siamo più nella Prima Repubblica, Cino Pomicino. Siamo nella seconda, ragazzi. È cambiato. Applaudiamo la seconda, devi contenti. No, io non sono contento. Viva il Bunga Bunga. Ma non è che la Seconda Repubblica si identifica col Bunga Bunga per forza. Non no, è che... assolutamente. Ma d'altro canto. Senti, ma lei ha capito poi sto Bunga Bunga. Il presidente del consiglio. Ma il consiglio è il consiglio rimane. Il presidente del consiglio. Che dovrebbe fare? Se vuole rimanere al suo posto, lo faccia. La storia lo riterrà più come il signore di Palazzo Grazioli che non come il presidente del Consiglio dei Ministri. Magari come il signore del Bunga Bunga, no? A me dire che questo, ma quando in realtà da ogni parte, dalla Confindustria alla Chiesa, anche nei modi universali in cui si esprime la Chiesa, ma quando parte rilevante del Paese, perché poi non dimentichiamo che Berlusconi, quando va alle elezioni, prendeva poco più di un terzo degli italiani, oggi ne prende meno. Ma lei non si sente niente, diciamo, dove sta lei? Io sono alla televisione, pronto per andare a fare una piccola intervista con il mio amico Corradino Mineo. La richiamiamo tra un amico, democristiano, amico di tutti, meraviglioso, la richiamiamo, la richiamiamo tra un istante perché sentiamo male. 19:55 c'è la pubblicità, 800 24 00 24, perché lei ha detto una cosa interessante in un'intervista alla stampa: neanche col fascismo c'erano gli amanti in Parlamento. Ma quante sono queste amanti in Parlamento? Io non l'ho capito. siamo qui, caro Parenzo. 800 24 00 24. Prima dei titoli, andiamo a Barese. Paolo, buonasera. Anzi, prima c'era Alessandro da Roma. Sì. Alessandro, dica. Ecco, niente, una notizia un po' curiosa. Io sono in giro per lavoro spesso all'estero, in particolare in Argentina, mi è caduto l'occhio su questa notizia, è uscita su un quotidiano locale che appunto descriveva come questo signor Juan Cabrera, un conosciuto ed emblematico imprenditore notturno della città di Rosario, ha aperto un locale, un locale notturno, e l'ha intitolato Palacio Berlusconi. Quindi ha voluto omaggiare un bordello, sì, esattamente, un bordello. Lo dica esplicitamente, non c'è mica problema. Sì, bordello. Siamo alla zanzara, non c'è problema. Sì, sì, sì. Va bene, Alessandro, no, curioso, naturalmente credo di aver visto questa notizia anche su qualche sito oggi. Sì, peraltro l'imprenditore dichiara che al fondo molti poi vorrebbero essere come lui, e che quindi il locale rappresenta un po' i gusti del nostro presidente, quindi belle donne, spettacoli, accompagnatrici di alto livello. Va bene, Alessandro, grazie. Allora, siamo di nuovo in collegamento con Cirino Pomicino, che sta per essere intervistato da Corradino Mineo, se non sbaglio. Signor Pomicino, ma qui in realtà Emilio Fede, il signor Mora, Lele Mora, dicono che si trattava di cene, di incontri piuttosto innocenti che si concludevano, sì, con delle feste, dei balli, eccetera. Le ho già detto che in uno stato garantista la verità è quella dell'indagato, sino a prova contraria. Appunto. E allora, la domanda che io faccio a Fede e a Lele Mora, ma che faccio a voi, che faccio a radioascoltatori, che faccio a me stesso, dico: ma è possibile che un uomo si rilassi facendo uno o due sere la settimana, cene con 12-15 giovani, belle e fanciulle, forse anche compiacenti? È questa la compagnia e lo stile di vita di un uomo che ha le responsabilità che ha? Per carità, può darci... Cioè, secondo lei il punto è che si stanca troppo? Qual è? No, il punto vero è che questo stile di vita è il segno, come ho detto nelle interviste di questa mattina, di un decadimento emotivo e intellettuale. Ha bisogno di avere sempre più emozioni e ha bisogno di non avere problemi di grande qualità a cui riflettere anche nelle ore di relax nella propria abitazione. Ma questa però è una roba psicologica, psicoanalitica. No, ma quale psicologica? Sarebbe soltanto psicologica, sarebbe privato se quell'uomo non è anche il capo del governo. Cioè, lei sta dicendo che le serate lo indeboliscono, questo vuole dire? No, cioè... sto dicendo che questo tipo di stile di vita, chi lo esercita, alzasse la mano. Alzasse la mano, perché la dobbiamo smettere con le ipocrisie. A me che Berlusconi diceva 15 persone, 15 fanciulle la sera, non mi frega più di tanto. Dico soltanto che se una persona ha questo stile di vita, lo pubblicizza, non solo offre un modello particolare di un paese che è interessato, è un paese frufru nel quale sesso, potere e quattrini sono la trilogia, i tre nuovi totem del paese, ma dall'altro lato, senza alcun giudizio moralistico, è l'espressione di un 75enne che dà segni di decadenza emotiva e intellettuale. Questo è il punto. Io ce n'ho 72, non sono un giovane. No, appunto, siccome siete quasi coetanei praticamente, ma lei... Io non sono ancora detto tutto. Non tollero la mia calvizie, non mi trapianto casomai quando purtroppo è capitato il mio cuore. E il cuore, sì, certo. Però le donne le piacciono, no? Perché a lei no. No, per carità, basso. Ma secondo la vulgata, le donne piacciono solo a Berlusconi. E soltanto che nessuno le... a nessuno viene in mente di prendere i sfusi a pacchetti. Cosa è sedurre una persona, una cosa è fare un pullman di fanciulle, ma ripeto, questo è uno stile di vita. Appunto, voglio non dire, non guarderebbe sì. Se non ci fosse da un lato la responsabilità di capo del governo e dall'altro la testimonianza, questo è un dato professionale che non si dimentichi, i fossi radioascoltatori non lo sanno, che io sono al di là della politica uno specialista in malattie nervose e mentali, questo è il decadimento emotivo e intellettuale di una persona. Vabbè, questo però... Una volta, se Berlusconi avesse il mito di Dorian Gray, cioè quello rilasciava invecchiare il proprio quadro per rimanere sempre giovane, e attribuivo a questo mito il fatto che lui non sopportasse la propria calvizie, che è il segno di un invecchiamento. Ma quando poi addirittura la cosa diventa una sorta di bulimica, come dice Fede, una bulimia soltanto conviviale, con 15 fanciulle belle, è ancora peggio, secondo la versione di Fede. Scusi un attimo, dice che è malato. È malato. Il ministro, l'ex ministro dice che è malato. Quindi io le dico che quello è un segno tipico e classico di un deterioramento emotivo e intellettuale. Ho capito. Senta, ma... poi ci vogliono anche le pasticchette per fare queste cose, o no? Io non lo so, lei se ne dice, io non l'ho mai provato. No, lei non l'ha mai provato. No, nel senso che, cioè, lei crede che ci siano incontri, come dire, solamente così? Ma io non vede, non è questo il punto, dice lei, non è questo credere il punto. Credere significa non sapere. Voi state facendo una divertente trasmissione tra la goliardia e... No, ma i suoi ragionamenti sono molto seri, assolutamente. Il dato drammatico che noi stiamo parlando di una persona verso la quale peraltro io sento anche un'amicizia, io non ho mica ho risentimento, lei ha ragione prima, io ho sostenuto Berlusconi, il suo compito negli anni 90. Ma poi bisogna anche avere la chiarezza dinanzi a chi in realtà gestisce più la sua figura di signore di Palazzo Razzioli che non di statista a Palazzo. Ma lei a queste feste non ha mai partecipato, no? Non sono mai stato invitato. Mai, forse. Sarò troppo anziano. Ma anche no, se Fede modestamente anziano lo è, appunto, più di me. Appunto, dico, poi vabbè, ma me. Eppure anche a lei, anche a lei non è che le donne non sono mai dispiaciute, cioè, assolutamente, ma ripeto, non a pacchetti, lei dice, non a pacchetti. Serio, la seduzione è una cosa intrigante e poi non è che si cambia ogni giorno, ogni sera, ogni settimana a frotte, ma di che parliamo? Ma avrebbe bisogno di una compagna, lei ci crede a questa storia della fidanzata, la compagna sta... No, è tipico, questa è una delle balle tipiche di una persona che è nell'entourage di Berlusconi, che da diversi e svariati mesi lo consiglia malissimo. E chi è, per esempio, chi è quello che lo consiglia? Andate a fare un'inchiesta e la scoprirete. Lo dica lei, Geronimo, scusi. No, ma che dico io? Te dico io, gli indiani parlano poco, come lei ben sa. Ma questi amanti in Parlamento, chi sono? Cioè, secondo lei... Ma non sono nemmeno amanti. Non sono le cortigiane, quelle che partecipano a questi festini, quelle che stanno intorno a lui e magari gli fanno credere... qui c'è altra roba, Cino Pomicino, onorevole, c'è altra roba qui. Non so che altro c'è. Io so soltanto che il paese avrebbe bisogno di una larga maggioranza, avrebbe bisogno di un governo concentrato sulle grandi questioni che affliggono l'Italia, e invece, che questo governo non c'è. Quando Casini questa mattina ha offerto a dire pronti ad allargare la maggioranza, a sostenere un governo del PDL, e chiediamo al Partito della Libertà di trovare un nuovo Presidente del Consiglio, ma non è possibile che in un grande partito che ha il 30% del paese o è Berlusconi Presidente del Consiglio o non c'è. Ma non mi pare una grossa scoperta. Non mi pare una grossa scoperta, però... Ma in tutti i paesi d'Europa... Ho capito, ma il PDL non è questo. Alternano i propri dirigenti. Ma Blair non è stato sostituito da Ho Brown. Capito, ma il PDL è un'altra cosa, Berlusconi è un'altra cosa. Ragazzi... Allora, spiegate che il PDL è un'altra cosa. Ma è già nota questa cosa. Il PDL è un'altra cosa, ma adesso devo andare in... Vada, grazie. Continuate ad essere goliardi, ragazzi. Grazie, venga a trovarci in studio. Arrivederci. Venga a trovarci in studio qualche volta. Venga a trovarci. 800 24 00 24, pubblicità, poi abbiamo la 7, i titoli che saranno lunghissimi. Parenzo, puoi anche addormentarti. Allora, vado a prendere un aperitivo intanto. Siamo qui, 20:11, caro Parenzo. Bello sentire la voce di Cirino Pomicino che bombarda su Berlusconi, eh. bellissimo, bellissimo. Sì, devo dire che si è ripreso un po' da quel brutto incidente al cuore, i bypass, eccetera, eccetera. 800 24 00 24, direi, prima dei titoli della 7, di ascoltare il signor Paolo da Varese. Buonasera. Pronto? Buonasera, signor Paolo, dica pure. Buonasera a lei. Tra l'altro lo spot è azzeccato, è come tornare e passare al bar e parlare con gli amici, sentire la sua... Bene, grazie, ci dica cosa ci vuole raccontare, sì, da Varese. Sono un po' emozionato. Non si emozioni, vada. Volevo parlare, no, di Saviano. Che vuole dire io su Saviano? Io voglio dire una cosa, io sono sconcertato del percorso fatto da Saviano, ovvero ha cominciato contrastando la camorra. E poi adesso che arriva al riconoscimento di questa sua battaglia della legalità, spreca, a mio avviso, la dedica ad un argomento, secondo me, di più basso livello. Una cosa se si combatte la camorra, un'altra se si dà solidarietà a chi segue un giro di festini o altro alla casa di un privato cittadino. Ma non è tanto questo il problema, di occuparsi di una cosa piuttosto che di un'altra. Non direi che sia che il problema è questo. Io francamente non riesco a capire, cioè non riesco a capire perché si riceve, per carità, poi uno può dedicare la laurea a chiunque, non sto dicendo questo, e ognuno è libero di fare davvero quello che vuole, sia chiaro questo, però insomma la dedica ai magistrati di Milano come se fossero minacciati da qualcuno, la solidarietà, lo trovo una cosa francamente... È vero che c'è uno scontro in atto tra la magistratura di Milano e Berlusconi. Ma questo mica da adesso. Berlusconi, voglio dire, non è una novità questa qui, cioè voglio dire, non è... L'aggravante è che qui siamo in una fase di indagini, quindi non c'è neanche un rinvio a giudizio. Allora, in questo momento è normale che l'imputato Berlusconi, come dire, si opponga in tutti i modi al processo. E quindi agli inquirenti, che non vogliono andare. Normale se fosse un cittadino normale, quindi ha diritto di difendersi. Nel caso di specie no, però perché è anche presidente del Consiglio. In tutto questo che c'entra Saviano? Che c'entra Rubi Rubacuori con quello che ha scritto Saviano fino ad oggi? Niente, questo è il problema. Silvia da Milano, grazie Paolo. Silvia. Pronto, buonasera, dottor Cruciani. Dica pure. Io sono un po' scandalizzata dalle telefonate che mi sembrano quacchere calviniste. Chiacchiere calviniste. Sì, però quacchere. Perché contro il peso politico della Minetti. Io dico, ma queste persone pensano che abbia peso politico la madre di Giuliani? La signora Calipari? Però mi scusi, questo è un incendio di quell'azienda e sono parlamentare Boccuzzi. Però mi scusi, signora Silvia, questo è un esercizio di benaltrismo. Si sta parlando di Nicol Minetti e lei dice cosa ci azzecca col Parlamento la moglie di Calipari. Certo, sì. Non tutte, ma infatti io sono con il Parlamento, con la capacità politica. Con la capacità politica, io sono d'accordo con lei, infatti questo esercizio, come dire, discriminatorio nei confronti di chi fa l'igienista dentale o contro chi fa la ballerina, io non lo accetto. Dopodiché il discorso è un altro, infatti ho cercato di tirarglielo fuori alla signora giudice. Il punto è perché è stata candidata nel listino bloccato. Diciamo la verità, tutti pensiamo una cosa e non abbiamo il coraggio di dirla apertamente, no Silvia? Sì, sì, ma può darsi, oppure può darsi che visto la tendenza che c'era a dover per forza pensare di dover candidare delle donne, abbiano dovuto cercare delle donne, perché sì, guardi che quando sono state fatte le candidature, se non si parlava di quote rosa eravamo completamente fuori dal mondo. C'è una differenza, Silvia, ma fondamentale proprio. La signora Calipari, la signora Giuliani sono, bene o male, Boccuzzi, piaccia o non piaccia, dei simboli. Allora si dica, e sono stati candidati per questo, cioè ma il non PD ha detto, fare politica. Ma allora lo si dica perché apertamente dalla signora Minetti, di Silvia, si dica apertamente, quello che mi fa andare ai matti fatti, come dicono in Toscana, è che non si dice apertamente il motivo per cui è stata candidata. Allora, se è chiaro perché è stato candidato Boccuzzi, cioè il simbolo del disastro della Thyssen, se è chiaro perché è stata candidata la signora Giuliani, giusto o sbagliato che sia, perché è la madre del martire del G8 e tutto quello che volete, è chiaro, sono due simboli, si dica chiaramente. Poi si possono contestare, i simboli si possono anche contestare, il metodo, eccetera. Determinante sulla qualità della mia vita, perché sono in Parlamento, che fanno le leggi. Sì, però qual è la capacità politica di queste persone? Simbolo, no, ma io sono d'accordo. Un altarino, vantiamo un'immaginetta, ma sono d'accordo. Sono d'accordo con lei. Sono d'accordo con lei che questa usanza di candidare i figli di persone scomparse o i mariti, le mogli, eccetera, è una è un qualcosa di pessimo, anche questo. Dopodiché, come ha detto Parenzo, c'è un motivo, cioè la questione del simbolo si può contestare. La figlia di Guido Rossa, no? Ucciso dalle Brigate Rosse, la figlia è un simbolo, rappresenta qualcosa, un pezzo di società, una memoria storica, lo si dice chiaramente, si dica chiaramente, e io accetto con rispetto questa cosa. È un'amica del Premier, punto, è un'amica del Premier. È stata candidata perché è igienista dentale e perché ha anche un bello scudetto tatuato lì. Lo si dica chiaramente, sarebbe più semplice, sarebbe meno ipocrita. Intanto Nadia Macri dice era un'altra ragazza marocchina che faceva la danza del ventre, i PM però hanno riconosciuto che era ai festini ad Arcore a Villa Certosa. Aia. Che tu hai partecipato ai festini, eccetera. Però non sei testimone del fatto che Rubi aveva preso soldi. No. E del fatto che Rubi aveva ballato nuda col premio, insomma, in sostanza. No. Vabbè, insomma, mi sembra che ci siano delle contraddizioni nel racconto di questa signora Rubi. Da domani a Bruxelles con grandi ospiti, caro Parenzo, siamo pronti, 800 24 00 24. Siamo internazionali e lo facciamo solo per i nostri radioascoltatori, che così hanno l'opportunità di conoscere le voci dell'Europa. Sì, le istituzioni europee, come funzionano, come non funzionano, certo. non diciamo una parola, ma comunque va bene lo stesso. Fabrizio da Udine, buonasera. Buonasera, dottor Cruciani. Dica. Complimenti per la trasmissione. Dica Fabrizio, dopo, non si guardi, fermi. Volevo intervenire sul predicozzo del signor Cirino Pomicino, non so se è ancora onorevole, no? No, non più. Non più, è meglio per tutti. Allora, niente, penso che questo signor Pomicino non abbia titolo a fare predica al signor Berlusconi, perché intanto Berlusconi, il nostro presidente, io sono un berlusconiano di ferro, le surfesse se le paga con i suoi soldi, mentre lui ai tempi della Democrazia Cristiana facevano le loro feste con i nostri soldi, capisce? Prima cosa, non ha titolo a farlo, anzi Berlusconi ha svecchiato la politica, questi vecchi tomboni della politica dovrebbero mettersi in disparte e andare in pensione. Ho capito, non ma guardi che a fare prediche. D'accordo, può darsi pure che non abbiano titolo a fare prediche, a parte c'è che la febbre, che radioascoltatore ha la febbre, Ah, perché adesso, insomma, lasciagli dire la sua opinione. Sì, no, per carità, giusto, è la sua opinione, sono d'accordo, però no, scusi Fabrizio, mi scusi un attimo, però bisogna segnalare che questo vecchio trombone della politica una volta, fino a poco tempo fa, appoggiava Berlusconi, per cui non è che a Berlusconi ma è d'accordo, appoggiava Berlusconi perché gli andava bene e per il suo interesse, capisce? Perché su questo non c'è dubbio. Siccome Berlusconi non è riuscito a farlo rientrare in Parlamento, adesso questo è andato da Casini, dall'UDC, un partito vecchio, la vecchia politica che avanza. Berlusconi purtroppo dà fastidio, questa gente sono invidiosi, continuano a sputtanarlo, scusi la parola. No, prego, non c'è problema. Va bene, Fabrizio. Poi volevo fare un intervento su quei due ragazzi del PDL, no? Sì. Sono anch'io un iscritto al PDL, no? Sì. Penso che questi ragazzi sbagliano, no? Non si può, già ci sono i Di Pietro, i vari della sinistra, il Popolo Viola che fanno polemiche sui giornali, ma come si fa un rappresentante del PDL andare a contestare la Minetti? Ma la Minetti, fino a prova contraria, fino a quando non ci sarà il reato, non si può chiedere le dimissioni. Quando ci sarà? Quando i magistrati, i giudici razza. Sì, ma non si sta parlando. La parola etica non la conosce, purtroppo, è uscita dalla testa. La etica non. No, ma la parola etica non c'entra niente in questo caso. Però, Troppo spostato a sinistra per i miei gusti. Mi dispiace. La parola opportunità neanche. È molto divertente, mi piace, l'ascolto ogni sera. Però lei mi piace. Ma però troppo. Scusi, troppo Fabrizio, però la signora. Ma non è una questione che di piacere, io non voglio piacere a nessuno, non devo prendere voti, non mi interessa. Dico la parola opportunità, le dice nulla? Opportunità politica di continuare in un ruolo, le dice nulla? Pronto? Pronto e collegato? Però secondo questo ragionamento anche Berlusconi dovrebbe dimettersi, eppure chiaramente. Ma perché si deve dimettere Berlusconi? No, scusi un attimo. No, Fabrizio, si calmi. Sì. Io sto dicendo, seguendo il discorso fino alle estreme conseguenze di Parenzo, lo stesso Berlusconi dovrebbe dimettersi seduto a stante. Ma perché si deve dimettere? Siamo ho capito, Fabrizio, sto facendo un ragionamento, si fermi. Sì. Sto dicendo, secondo il ragionamento di Parenzo, anche Berlusconi dovrebbe dimettersi per il solo fatto che escono fuori queste cose. No, dovrebbe andare intanto dai giudici. Una cosa dovrebbe intanto cominciare a andare. Va bene, adesso lo vedremo quello che succederà. Ma ho capito, ma lo vedremo quello che succederà. Fabrizio. Lo vedremo lì. Longo e Ghedini ha già detto col ciuffolo. Capito, ma dai PM non significa che non vada ai giudici. Che il discorso va avanti lo stesso. Non si presenta agli interrogatori, ma non è che si ferma tutto perché Berlusconi non va. Poi farà... Dottor Cruciani, lei si ricorda che Berlusconi è già stato davanti ai giudici in un'udienza che si è vista sulla televisione a difendersi e li ha sbugiardati. Vabbè, Fabrizio, però si calmi. Sì, non so, Tolga tutto il prosciutto dagli occhi un attimo, che sennò. No, stai calmo. Si tolga il prosciuttino dagli occhi. Fabrizio, mi scusi un attimo. La questione della signora Minetti, fermiamoci alla questione della signora Minetti. È molto semplice. Tutti sanno come è stato fatto il listino bloccato in Lombardia. E chi ha voluto, fortissimamente voluto, che la signora Minetti entrasse in lista? Uno può dire, tanto nei listini bloccati ci vanno quelli decisi dai segretari, in tutti i partiti funziona così, no? Dunque, perché Cruciani, ma guardi che anche, sa quello del Partito Liberale, Guzzanti, no? Anche quello Berlusconi l'ha messo in lista, cosa c'è? Ma anche questo perché l'ha messo? Perché ha i capelli rossi? Perché è bello? Perché la figlia che è contro Berlusconi? Cosa c'entra? Scusi, Berlusconi, secondo lui, ha fatto una scelta, avrà fatto lui mettere la signora Minetti, che è anche una bella ragazza, una bella donna, come piace Berlusconi, l'avrà messa nel listino bloccato come tante altre, perché allora cosa diciamo della Carpagna? Come diciamo del Presti Giacomo? Cosa dobbiamo dire di queste persone? No, però mi scusi, qui è una questione. Non ho detto che è una escort, Fabrizio, non ho detto che è una escort, ho detto semplicemente che in Lombardia è arcinoto il motivo per cui è stata messa nel listino bloccato la signora Minetti. Però detto questo, ognuno si assume poi la responsabilità delle proprie scelte. E infatti in questo caso quando uno sceglie una persona da mettere in un listino bloccato e questa persona poi è coinvolta in un'inchiesta eccetera eccetera, si assume la responsabilità della scelta che ha fatto, ed è per questo che dicevo prima che la mobilitazione, la raccolta di firme per chiedere le dimissioni sono cose ridicole, perché tanto la situazione è lampante, è chiara a tutti, era chiara prima ed è chiara dopo. Ma come si fa dei rappresentanti del PDL a chiedere le dimissioni di una loro rappresentante? Questo lo facciano tramite i coordinatori regionali, tramite il coordinatore provinciale. Oggettivamente su questo ha ragione Fabrizio, Parenzo. No, ha ragione, su questo ha ragione Fabrizio. Cioè, ma tu stai perché infatti non tu, ma il radioascoltatore che è un iscritto al PDL intende il partito come un monolite dove esiste soltanto il sovrano Berlusconi. No, ma non è questo, la raccolta di firme non ha senso, è la raccolta di firme che non ha. Ma sì, ma infatti nessuno impedisce alla signora giudice. Ma infatti sono iscritti al PDL che hanno firmato. Ma scusa, a parte che non lo so chi ha firmato, perché non è che si scrive. Molti dice la giudice sono iscritta a PDL, ma è una battaglia politica interna, nei partiti si discute, nella Democrazia Cristiana si discuteva, c'è una dialettica interna, no? Sì, ma si per discute. È sulla raccolta di firme che mi viene qualche sospetto. La raccolta di firme è, dice, un gesto estremo, visto che comunque riunioni non ce ne sono mai, decidono tutto dall'alto, io mi faccio sentire, sono una giovane e vi dico che così non va. È una battaglia per risanare il suo partito. E questo è il punto interessante. Nicola da Mantova, buonasera. Buonasera, buonasera. Dica. Molto subito che, a differenza del presente ascoltatore, io non sono iscritto al PDL. Però volevo intervenire anch'io sull'intervento della signora giudice, in quanto secondo me non capisco perché la signora giudice si opponga essendo iscritta al PDL, quando lo statuto del PDL prevede che Berlusconi possa decidere a suo giudizio insindacabile chi si debba candidare. in una lista. Ma nessuno mette in discussione il principio per cui i segretari di partito scelgono i rappresentanti nei listini bloccati, in questo caso per le regionali. E c'è qualcuno che può dire che il criterio utilizzato da Berlusconi è un criterio evidentemente sbagliato per quello che è successo dopo, e la posizione della signora Minetti non è che proprio sia dicono queste persone, getta un po' di discredito sull'istituzione della regione Lombardia. Questo è il ragionamento, Nicola. Poi dopodiché io non sono quello il meno moralista di tutti, si figuri. No, ma infatti, ma per me la signora Minetti può fare quello che vuole, può partecipare a tutte le feste che vuole e reclutare tutte le persone che vuole. Ma la Minetti, cioè, secondo me la Minetti è una figura, ma secondo me rientra in una strategia complessiva della persona Berlusconi, delle persone di cui si accerca. Sì, però non bisogna essere ipocriti, perché io ho letto un'intervista. No, ma infatti non voglio essere ipocrita. No, lei, io ho letto un'intervista al governatore della Lombardia Formigoni, il quale dice: non sono io che l'ho candidata, nemmeno la conoscevo. Dice Formigoni, me l'ha presentata Berlusconi dicendo che era una ragazza con un curriculum professionale, eccetera, grande appassionata di politica. Ora, voglio dire, io non so se Formigoni la conosceva o non la conosceva, però insomma, francamente bisognerebbe anche avere un po' di rispetto per come stanno le cose, non ci prendiamo in giro. La signora Minetti è stata candidata perché è amica con Berlusconi, io non so i rapporti che ci sono tra la signora Minetti e Berlusconi, è stata candidata perché è amica personale di Berlusconi, perché è frequentatrice delle serate di Berlusconi, non solo delle serate, non lo so, ci sarà un rapporto di amicizia, ma la situazione è questa, la realtà è questa, è l'ipocrisia che mi dà fastidio. Non voglio parlare di ipocrisia, parlavo di più della strategia, cioè lui decide chi vuole mettere. Anche la signora Zanichi, che vi ha intervistato poco tempo fa, anche lei è entrata lì perché è amica di Berlusconi. Ma ha preso le preferenze. No, però scusa, non anche scusa, c'è una differenza, sì, ma certo, anche tra il Trota e la signora Minetti, ma perché non lo capite? No, ma io lo capisco benissimo. Il Trota benissimo, ha preso dei voti. No, scusami Parenzo, però c'è per esempio la, come si chiama, quella, l'ex hostess dell'Alitalia, candidata di Pietro in Liguria, non so se è diventata consigliere regionale in Liguria, penso di sì, o non ce l'ha fatta, comunque era stata candidata perché rappresentante del mondo della Lidale, eccetera eccetera. Esatto. Io non dico che sia una consigliera regionale più degna rispetto alla Minetti. La Minetti può anche fare un lavoro meraviglioso alla regione Lombardia, ne dubito, perché non credo che la sua passione più grande è quella di fare il consigliere regionale Lombardia, ma comunque bisogna però essere chiari sui motivi che hanno portato alla candidatura. I motivi che hanno portato alla candidatura sono molto semplici e li sappiamo tutti. Nicola, è chiaro o no? Sì, sì, ma per me è chiarissimo. Ma guardi, io. Ma perché ognuno si assume la responsabilità, di mettere in lista chi vuole. E infatti, gli errori, come vede, gli errori poi si ripercuotono su chi ha fatto quelle scelte. C'è la borsa, torniamo subito, resti con noi. Eccoci, 800 24 00 24, per chiamarci in diretta. Abbiamo perso i titoli della 7 che vi riproponiamo, eccoli qui. Strade all'aeroporto di Mosca, un kamikaze si lascia esplodere uccidendo almeno 35 persone e tra i morti anche cittadini stranieri, ferito anche un italiano, allarme in tutto il paese. Medvedev, prenderemo i terroristi. Italia sgomenta, nubi sul paese, dice il presidente della Conferenza Episcopale Italiana, senza pronunciare mai il nome di Rubin e quello di Berlusconi. Bagnasco precisa, fare subito chiarezza, chi ha mandato politico deve essere campione di misura e sobrietà. Punire i magistrati che intercettano ingiustamente. Nel fuoco delle polemiche spunta una proposta di legge firmata da un esponente del PDL, chiede sanzioni per i PM, un po' quello che aveva auspicato Berlusconi in un suo videomessaggio. Le verità cangianti di Nadia Macri, la giovane escort nuovamente interrogata a Milano. C'era qualcosa che non andava, infatti ai nostri microfoni dice: quella che ho visto a Arcore non era Ruby. Scende di un punto e mezzo il PDL, cresce un po' l'opposizione. La verità è che a questo punto anche la Camera, se si votasse oggi, sarebbe contrastata. Quindi è un motivo per cui probabilmente le elezioni non si avvicinano. Esperta di abbandono di studi televisivi, prima nell'infuocato finale di Anno Zero, poi ad Agorà di Vianello, la consigliera di Berlusconi, e diventa il prototipo del guastatore televisivo nelle tribune che sono avverse. Eccoci di nuovo in diretta, 800 24 00 24. Parenzo ci ha lasciato per andarsi a occupare della sua trasmissione su Lombardia Channel. Intanto eravamo con Nicola da Mantova. Prego Nicola. Sì, sono qui. No, appunto, volevo finire il discorso. Appunto, adesso abbiamo appena sentito anche il TG di La 7 titoli, cioè, per collegarmi al discorso di prima, anche la Santa anche stessa. Due anni fa lei non si candidò alle ultime elezioni governative, non si candidò con Berlusconi per un motivo molto preciso. Oggi va in Parlamento, va in TV e lo difende per lo stesso argomento. Quindi mi sembra un po' anche lei contraddittoria sull'argomento. Beh, sulle contraddizioni della Santanchè non ci sono dubbi, come dire, no? È un dato ormai accertato, però non è che ogni volta che parla la Santanchè bisogna ricordarsi delle donne orizzontali, eccetera. Bisogna anche fare un minimo di attenzione alle cose che dice, per così dire. Sì, sì, sì, però io adesso io guardo le nomine nelle varie liste. Io cito un libro abbastanza significativo di Pierluigi Celli, Le virtù deboli, che potrebbe essere molto significativo per Berlusconi, un leader che si riempie di adepti poco validi per tenerli a sotto scacco e comandarli come vuole, quando vuole. E tutti queste persone hanno paura di andare contro di lui per venire messi fuori dal sistema che lui ha creato. Va bene, quindi, grazie. Valentino dalla provincia di Milano, buonasera. Sì, buonasera, mi sente? Sì, la sento, dica pure. Dottore, ma io volevo fare una piccola considerazione sull'intervento questa sera della signora giudice. Io non sono vecchio, ho 50 anni, in realtà però sentire dire dalla signora giudice utilizzare certi tipi di parole mi ha dato un po' fastidio. Per esempio? Ma fuori le palle, coglioni e quant'altro. Vabbè, adesso voglio dire, erano delle metafore, la signora giudice voleva semplicemente dire. È una ragazza di 25 anni, parla di gavetta, francamente 25 anni parlare di gavetta, lei ha fatto la gavetta, a me fare un po' fuori luogo. Era semplicemente un intervento di riflessione, educazione. Una persona come lei di 25 anni che ritiene di essere nel giusto, visto e considerato che fa delle considerazioni su altre persone, dovrebbe a mio giudizio essere un po' più attenta al sistema linguistico che utilizza. Non mi è sembrato particolarmente volgare, devo dire la verità, con tutto quello che sentiamo. Ha detto semplicemente. Ha ragione, però qualcuno. Scusi, Valentino, ha detto semplicemente: vorrei delle donne con le palle, non gente come la Minetti. Questa è la sua idea. Non dico che sia quella corretta, non dico che sia quella giusta, ma ha utilizzato questa espressione come una sorta di metafora per dire ci vuole più merito, eccetera, eccetera. Vita da Roma, buonasera. Buonasera. Dica. Io intervengo in merito alla raccolta delle firme da parte della direttrice dell'unità Concita De Gregorio e la sua considerazione del corpo delle donne, perché è della considerazione delle donne da parte della De Gregorio che si tratta. Ecco, io non mi sento rappresentata come donna da Concita De Gregorio. Signora Vita, si figuri, con me sfondo una porta aperta, per cui. Ecco, appunto, io ritengo che in realtà chi consideri la donna oggetto di una strumentalizzazione, in realtà ne parli come di una minus habens, come di una persona incapace di intendere e di volere, priva di una capacità decisionale. Io parto invece dal presupposto che la donna decide quello che vuole fare nella vita, che voglia fare l'impiegata, la commessa, l'astrofisica, ovvero la escort, e soprattutto se ne assume la responsabilità, cosa che evidentemente alla signora De Gregorio sfugge. No, ma vede, io sono perfettamente d'accordo con lei, al 100%, la cosiddetta libertà di scelta. Cosa per cui si battevano, no? Si ricorda le femministe negli anni 70, certo. Anche negli anni 80, e anche quello di come scrive Ostellino, attaccato da una parte dei giornalisti del Corriere della Sera, è anche al limite, per paradosso, quella di vendere il proprio corpo. Io di questo sono assolutamente convinto, quando naturalmente la cosa non avvenga per costrizione, per schiavitù, per sfruttamento, sì. Eccetera, eccetera. Guardi, com'è evidente. Esatto, ed aggiungo ancora un'altra cosa, che quella che fa la signora De Gregorio è ancora più grave, perché è una forma di deresponsabilizzazione delle donne, vale a dire la responsabilità non è loro, ma è di chi le sfrutta. E questo mi sembra ancora più grave, perché significa dire non è mai colpa mia, è probabilmente, ma è sempre colpa di qualcun altro, è probabilmente se le cose in questo paese non vanno come dovrebbero andare, perché comunque è sempre colpa di qualcun altro. Quindi io personalmente, nel momento in cui ritengo la donna un individuo provvisto di capacità decisionale, ritengo anche la donna provvista di un senso di responsabilità, quindi in relazione alle scelte che fa si assume. No, ma tra l'altro la questione della, è stata notata più volte da alcuni giornali vicino al centrodestra, ma la voglio ripetere. Sì. Ne vogliamo parlare a proposito di sfruttamento della donna o di quello che si vuole far vedere della donna, la pubblicità della nuova unità che inaugurò l'era di Concita De Gregorio alla direzione dell'unità, sì, quella con, sì, i jeans, esatto, praticamente all'altezza dei glutei, eccetera, esatto, eccetera, lasciamo perdere. Per carità, foto bellissima, io trovo, pubblicità, esatto, pubblicità azzeccata da un certo punto, no, di vista. Però di che parliamo? Adesso... Hanno fatto vedere il sedere di una donna in quella pubblicità. Non è, esatto, che hanno fatto vedere una che andava al lavoro con l'unità sotto braccio, impegnata professionalmente in uno studio di avvocati o in una grande, esatto, in una grande azienda multinazionale. Non diciamo stupidaggini. Su. Esatto, peraltro pubblicità che venne poi rapidamente ritirata perché si resero conto abbastanza velocemente che si era trattato di un errore e di un autogol e che probabilmente sarebbe stato loro rinfacciato, così come viene correttamente ed opportunamente fatto. Adesso io non so se è stata ritirata, probabilmente sì, come dice lei, questo aspetto, sì, non me lo ricordo, però insomma, se è stata ritirata, peggio, esempio lampante di bacchettonismo. Grazie, sì, grazie. Volevo solo aggiungere ancora, sì, un'altra cosa. Parlerei a livello di sfruttamento di corpi a questo punto, esattamente come vengono sfruttate le donne, che ne so, lo sfruttamento del corpo dell'extracomunitario mandato a lavorare nel cantiere edile, sottopagato e senza tutele sulla sicurezza del lavoro. Non è forse la stessa cosa? Ecco, non mi pare che ci siano raccolte di firme in quel senso. Grazie, grazie signora Vita. Prego, andiamo a Napoli. Ciro, buonasera. Buonasera Cruciani, ho ascoltato l'ultimo intervento della signora, io però non sono assolutamente d'accordo con lei, con la signora, anche se lei è d'accordo al 100% con la signora che è appena intervenuto, ma a me risulta che comunque il reato di prostituzione non è stato depennato dal codice italiano, quindi se uno fa ma non stiamo parlando di paga, non stiamo parlando di reati, a parte che di escort, no, a parte escort, che è libero di vendere il proprio corpo, a parte che non esiste il reato di prostituzione, Ciro, io lo dico subito. Il reato di prostituzione non esiste, esiste il reato di induzione alla prostituzione, esiste il reato di sfruttamento alla prostituzione, ma non è un reato prostituirsi. Però quello minorile sì, mi ricordo che comunque. Ma certo, quello minorile, minorile, certo, quello minorile comunque significa semplicemente il fatto che uno va con una minorenne. No, io ho ascoltato solo alla fine e pensavo che stavate parlando del caso Ruby. Credevo che stavate parlando del caso Ruby, però io sono intervenuto perché quando stavo in macchina ascoltavo lei che diceva telefonateci, diteci altre minette d'Italia, no? Sì, e io poi, sì, mi ricordavo questo, ricordo ad esempio che già una volta se ne è parlato come la Giovanna del Giudice che è assessore qui alla provincia di Napoli, sì. Poi c'è la Pascale, quella ragazza che è stata candidata alle provinciali, che fece il comitato Silvio Cimanchi. Sì, consigliera provinciale, che si è detto anche di recente. Si è detto di recente che potrebbe essere la fidanzata di Berlusconi, sì. Sì, poi c'è anche la nipote della Santanchè che ne dice di tutti i colori a tutti quanti, la nipote 23 anni l'hanno fatta assessore alla provincia della Lombardia, mi pare alla provincia di Milano, se ricordo bene, sì, qualcosa da Gianero. Sì, sì, sì. Quindi comunque ho capito, ma lei perché dice tante minetti? Perché secondo me Minetti si dovrebbe dimettere, dovrebbe avere quella dignità proprio lei di dimettersi, vabbè, perché non è possibile secondo me andare in politica, soprattutto per chi ha fatto politica per tanti anni nei consiglieri comunali, nei consiglieri circoscrizionali, nei consiglieri delle grandi città, poi ti ritrovi uno che solo perché è bella, è buona come diciamo noi e tu te la ritrovi davanti, ti passano davanti, comunque è deprimente per chi fa veramente politica. Ho capito. Grazie Ciro, traffico, torniamo subito. Eccoci di nuovo in diretta per l'ultimissima parte della Zanzara di oggi, 800 24 00 24. Claudio da Torino, buonasera. Claudio? Niente, Andrea da Treviso. Buonasera. Prego. Senta, io volevo intervenire per dire questa cosa. Noi assistiamo, diciamo, ad una sinistra e anche ad una stampa di sinistra che fa la morale a Berlusconi, no? Un vicino che dovrebbe dimettersi, la dignità, tutte queste cose. Ecco, io volevo dire che questi signori non tengono conto che noi viviamo in un paese dove l'aborto è legalizzato da 30 anni, no? Dove è legale uccidere i bambini nella pancia delle mamme. Ma chi è? Vabbè, ho capito, ma Andrea, non noi è che... viviamo in un paese dove un tribunale della Repubblica ha sentenziato che poteva una giovane donna disabile sì. essere fatta morire di fame e di sete. Scusi, ma cosa c'entra con l'affare abbiamo... Berlusconi questo? Lei dice che gli stessi che fanno la morale a Berlusconi sono quelli che sostengono l'eutanasia, eccetera, eccetera. Cioè, no, c'entra in questo senso. No? Non mi dica, perché allora, se no non capisco. L'etica, no? L'etica non è che... Cioè, l'etica prevede una cosa di base, no? Prevede il fatto che io devo stare in una relazione, diciamo, di rispetto con le altre persone, no? Allora? Devo stare in una relazione in cui io non danneggio il prossimo, no? Allora... Se questi signori ritengono che l'aborto, l'eutanasia, l'eugenetica siano leciti, allora? Non capisco perché un vecchio signore a cui piacciono le donne questa cosa non sia etica. No, però mi scusi, adesso no, francamente... è etico, tutto il resto è etico anche questo. No, francamente Andrea, adesso veramente sono cose che non c'entrano assolutamente nulla. Io questo tipo di critica a coloro che criticano il comportamento privato di Berlusconi l'ho sentita negli ultimi giorni e francamente non ne colgo il senso, non ne colgo il nesso, cioè non c'è nessun collegamento tra queste cose qui, cioè, davvero non c'è nessun collegamento secondo me. Andrea, però abbiamo un collegamento invece, questa volta sì, con Don Aldo Antonelli. Buonasera. Buonasera, buonasera, eccoci presenti. Parroco di Antrosano, provincia dell'Aquila. Perfetto. Senta, perché lei ha affisso questo cartello davanti alla sua chiesa? Lutto per il paese, lutto per una chiesa, umiliato il paese da un premier immondo, affarista e licenzioso. Ma lei ha la tonaca, Don Aldo. No, la tonaca non ce l'ho, guardi. Come lei non ce l'ha? Non le vede purtroppo in radio, ma... non ce l'ho. No, ho capito, non ce l'ha, però ce ho l'ha, capito, diciamo... Dunque, c'è una visione, a proposito di tonaca e del mio linguaggio, sì. C'è una visione del cristianesimo che è tutta melassa. Sembra che l'essere cristiano consista soltanto nell'accettare le cose, nel pazientare, nello stare zitti, nel perdonare, nel non reagire. C'è un Gesù Cristo che usa sì la carezza, ma a volte usa i pugni. C'è un Gesù Cristo che a volte sta zitto e a volte grida. C'è il Cristo nel Vangelo del sorriso e anche il Cristo della frusta. E non è onesto, perché da mascalzoni identificare la figura di Cristo solo nella sua parte, diciamo, romantica, bella, calma, e cancellare l'altro Cristo, diciamo il Cristo di Pasolini, per rifarci per esempio all'immagine bellissima del film di Pasolini, e dunque? Il Vangelo secondo Matteo, capisce? E dunque qui lei però, cioè, il premier immondo è un linguaggio pesante, Don Antonetti. Pesante, se la realtà, io mi auguro, cioè, che perché sia, immondo? Perché per immondo? Quello che si manifesta, quella è la pesantezza, non sono le parole che traducono una realtà, è la realtà che le parole dovrebbero veicolare. O no? Cioè, se una persona uccide un povero innocente, se lo chiama assassino, non è la parola assassino grave, ma il fatto grave. E dunque perché sarebbe immondo il premier? Ma perché non solo con i comportamenti che, diciamo, mi auguro che siano, ma penso che, ma com'è Berlusconi, siano tutti veri, ma anche nel suo modo di comportarsi, di parlare con la gente, anche di fare battute. Se avete fame, spostatevi un ricco. Sono volgarità che trasmettono nella coscienza delle persone per la quale crescita, io prete, lavoro, sì, far crescere la coscienza della gente. Trasmettono solo volgarità e banalità. Senta, signor Antonelli, prima di concludere questo collegamento, poi ci sentiremo nei prossimi giorni, ma oggi c'è stato un intervento da parte del signor Bagnasco, lei ha sentito l'Assemblea dei Vescovi, disagio morale, bisogna chiarire le sedi appropriate, lei avrebbe usato il bastone in maniera più pesante? Ma guardi, no, dunque, devo solo lamentare che una pronuncia buona, bella, dovuta, sì, anche corretta, sì, viene però con troppo ritardo, viene dopo che hanno parlato persone, dopo che io ho fatto questo gesto di provocazione. Ma non mi dirà che Bagnasco, Bagnasco ha preso esempio da lei, insomma. No, non penso. Comunque, ho capito, ma lei sa che la conferenza episcopale ha i suoi tempi, non è che reagisce subito, non è che entra nel battibecco della politica. Il mio vescovo, e mi auguro che il mio vescovo abbia trasmesso in sedi più appropriate il mio malessere. Va bene, Don Antonelli, ci sentiamo presto. Grazie. Da Antrosano, provincia di L'Aquila, Mauro Alessandria, Claudio da Torino, Andrea da Treviso, Riccardo da Roma, Andrea da Genova. Ci sentiamo domani, 18:30, La Zanzara da Bruxelles. Ciao. La Zanzara, il titolo più di merda del mondo. Soltanto tu potevi inventarti un titolo del cazzo come quello. Soltanto tu. Ricordati che devi morire. Come? Ricordati che devi morire. Va bene. Ricordati che devi morire. Sì, no, mo me lo segni proprio. C'è una cosa... Non ti preoccupare.